C'erano dei pescatori da liberare in Libia e poi un incontro con Renzi da fare, quindi è rimandata ad oggi qualsiasi decisione sulle regole per Natale. Alle 18 il Consiglio dei Ministri e continuano ad affastellarsi ipotesi, ma che ve le dico a fare perché cambiano ogni giorno. Quella nuova è che si potranno incontrare due parenti stretti. Chissà come si può verificare la cosa. Ma vedremo. Quello che possiamo registrare in queste ore è l'ondata di prenotazioni e partenze prima che si chiuda tutto. I pescatori, come si diceva, intanto sono stati liberati dopo 108 giorni, con qualche critica dalle opposizioni sulle modalità un po' spettacolari, la presenza di Conte, di Di Maio e di Casalino e i tempi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, state facendo la lista degli invitati per Natale? Due. Esclusi gli under 14, ma due. Almeno così, stando alle ultime indiscrezioni, lo dice il Corriere della Sera, Natale con due invitati, le regole per spostamenti e pranzi, è il massimo che si può fare. Oppure vi state organizzando per partire prima che venga chiuso tutto, ma anche se non sappiamo quando e come verrà chiuso. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. E lo dico all'ascoltatore che dice anche oggi l'attacco quotidiano al governo. Non è un attacco, è semplicemente una richiesta di chiarezza. Dite se dovete stabilire delle regole, stabilitele, ma stabilitele in un tempo decente, no? Punto, perché la gente si deve organizzare, le aziende si devono organizzare, i negozi devono capire quando stare aperti e come stare aperti. È semplice la cosa, bisogna un po' organizzarsi e dare il tempo alle persone di organizzarsi. Posto che tutti sappiamo sempre che la cosa migliore è limitare al massimo gli spostamenti, limitare al massimo gli incontri, essere il più rigidi possibile su questo fronte. Posto che lo sappiamo, avere delle regole chiare presto può essere utile. Non è un attacco al governo, è dire forse potevamo ragionarci 2 o 3 giorni fa su questa cosa. No? Però vabbè, ci siamo quasi. Aspetteremo, sarà probabilmente, lo sapremo nella serata di sabato, visto come sono andate le cose su questo fronte nell'ultimo periodo. Iniziamo però, facciamo così, iniziamo dai pescatori di Mazara del Vallo, ne parleremo poi più avanti, avremo ospite alle 8.35 la viceministra agli esteri, Marina Sereni. La moglie di uno dei pescatori, sentiamolo all'aria che tira. Oggi è gioia pura. Finalmente dopo 108 giorni possiamo gridare a tutti che hanno liberato i 18 pescatori di Mazara. La gioia. Luigi Di Maio, ieri al TG1. I nostri pescatori stanno bene, come avete visto anche dalle foto. Avevamo promesso di riportarli a casa prima di Natale, lo abbiamo fatto. Siamo molto orgogliosi di questo risultato e credo che il Paese debba reagire unito a questo risultato. Io voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato, in particolare l'intelligence, l'agenzia esterna, la nostra difesa, il nostro corpo diplomatico e tutti i servitori dello Stato che hanno lavorato a questo grande risultato. Dice Di Maio, stiamo lavorando in silenzio anche per Zaki. Deve essere chiaro che ci aspettiamo dall'Unione Europea sul caso Regeni una reazione compatta. Mi lasci anche dire che nell'ultimo anno abbiamo riportato a casa i 7 nostri connazionali che erano rapiti all'estero, più i pescatori di oggi. Adesso siamo al lavoro sul riportare in libertà Patrick Zaki dalle carceri egiziane. Stiamo lavorando con Washington per riportare in Italia Chico Forti. Lo facciamo lavorando in silenzio, ma con grande, grande orgoglio per quello che facciamo. Così Luigi Di Maio. L'opposizione Molinari della Lega, intervenuta a TG2 Post, dice è discutibile, soprattutto a prescindere, dice vabbè, Molinari in parte giustifica, dice vabbè, è abbastanza, è figlia dei nostri tempi il fatto che vadano Conte, Di Maio, che ci sia un po' di cinema su questa vicenda. E però è discutibile che il portavoce del Presidente del Consiglio, Casalino, si tagghi a Bengasi, sentiamo. La di oggi è una notizia su cui non ci si deve dividere, siamo tutti felici ovviamente, facciamo i complimenti agli uomini della Farnesina, ringraziamo gli uomini dell'intelligence. La spettacolarizzazione del Premier e del Ministro degli Esteri diciamo che fa parte dei giochi, forse lascia un po' basiti il fatto che il portavoce del Premier abbia pensato in una missione riservata istituzionale di taggarsi sui social a Bengasi nel luogo dell'incontro, ma insomma questo, diciamo che siamo figli dei nostri tempi, insomma, quindi il governo è quello che è, quindi anche i comportamenti sono quelli che sono. E così il ministro Boccia che replica. Bisogna semplicemente essere felici, contenti e abbracciare idealmente a distanza le famiglie. Fine. Far polemiche anche su queste cose dà la cifra politica e umana di chi le fa. Allora, il punto su questa vicenda dei pescatori mi pare il seguente. Qual è il prezzo che l'Italia ha pagato per ottenere la liberazione dei pescatori? Non è un prezzo economico, a quanto pare, almeno a quel che sappiamo, ma è un prezzo politico. Ossia, il generale Khalifa Haftar voleva avere di fatto la foto con Giuseppe Conte, una sorta di riconoscimento politico di questa figura che, come sappiamo, è alla guida di un governo non riconosciuto che domina su un pezzo della Libia. E quindi, appunto, il prezzo che l'Italia ha deciso di pagare per la liberazione dei pescatori è un prezzo politico, un quasi riconoscimento politico di Khalifa Haftar come interlocutore. Il che si porta dietro tutta una serie di altri elementi, perché sappiamo che per esempio il generale Khalifa Haftar è ampiamente appoggiato dal governo egiziano di Al-Sisi. C'è l'elemento Turchia da tenere presente. C'è un tema di fondo ben più largo, appunto, della liberazione dei pescatori, della eventuale passerella mediatica di Casalino che si tagga a Bengasi, e la partita politica è questa. Torneremo a parlarne in rassegna stampa e poi alle 8.35 con la vice ministro degli esteri. Ovviamente la questione Libia a cosa ci riporta, a cosa ci richiama? Uno dei pezzi della grande partita libica, oltre alla questione energetica, è ovviamente quella dei migranti. Ebbene, ieri in Parlamento si è andati al voto di fiducia sui decreti sicurezza, sul decreto sicurezza, e il ministro D'Incà ha messo la fiducia ed è scoppiato il caos. Sentiamo. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione... Un attimo. Collega Ministro, ti fermo. Aspetti un attimo, Conclusione del decreto... Mi dica! Numero 130. Sospendo la seduta, dice la Russa, poi la Lega decide di occupare la Camera perché dice qua si va al voto di fiducia sui decreti sicurezza, che sono un po' la bandiera, no? di Salvini e della Lega, del primo governo Conte. In sostanza hanno deciso di occupare l'aula contro questa decisione di mettere la fiducia. Vedremo come andranno le cose al Senato, ci sono state anche accuse al... come avete sentito, Ignazio La Russa, da vicepresidente, stava presiedendo la seduta, ci sono anche accuse alla Russa, e soprattutto, ve lo dico, ci sono le foto un po' dappertutto di un discreto assembramento che non è proprio saggio di questi tempi. La questione dei vaccini, anzi no, prima la questione delle regole per Natale. Un po' di retorica, perché è così, dal commissario Arcuri ieri sul Natale, come deve essere questo Natale? Nei prossimi giorni, per una volta, non dobbiamo pensare solo a trascorrere un buon Natale, ma piuttosto impegnarci a vivere un Natale buono. Eh già. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. No, non un buon Natale, ma un Natale buono. Non un pennello grande, ma un grande pennello. Io queste cose... Mi perdonerà il commissario Arcuri se il nostro ascoltatore, non lo so, i suoi collaboratori, ma io questa retorica mi fa diventare matto. C'è anche l'elemento della scuola. Se sarà un Natale buono, potremo andare a scuola, i ragazzi delle superiori potranno andare a scuola dal 7 di gennaio. Penso che se passeremo tutti un Natale buono, questo Natale buono servirà anche a scongiurare l'ipotesi che la recrudescenza dei contagi possa rimettere in discussione l'apertura della scuola. È così, ci vuole un Natale buono per mandare i ragazzi a scuola dopo il 7 di gennaio e non invece un piano adeguato sul fronte dei trasporti, dell'organizzazione delle entrate, delle uscite, dell'organizzazione delle città, mentre vi faccio sapere che l'assessore all'istruzione della Regione Campania, cari amici ascoltatori, soprattutto dalla Campania, ma non solo, parlando, ne dà notizia oggi il mattino, dice: beh, però tutto sommato questo rientro il 7 gennaio non ci convince, potremmo andare più avanti di qualche settimana, così. Beh, io non so come non siano riusciti ad organizzarsi, come non abbiano pensato ad organizzarsi le regioni, i comuni e in parte ovviamente anche il governo. La questione del vaccino, visto che è stato un grande successo, forse potremmo usare anche Immuni anche per il vaccino. L'app Immuni ha dimostrato di essere, dal punto di vista della performance, tra le migliori app pensate e realizzate nel mondo per la funzione del contact tracing, anche rispetto alla campagna di vaccinazione. Non siamo ancora arrivati al momento di comprendere se e quale connessione ci può essere, ma non escludiamo che ciò possa avvenire. Allora, la sostanza è questa, dice il commissario Arcuri: Potremmo usare l'app Immuni per la questione del vaccino, ma non sappiamo quale connessione ci sia tra l'utilizzo di questa app e il tracciamento di chi è vaccinato. Potremmo, però non lo sappiamo esattamente. Così è, arriveranno, dice, 202 milioni di dosi in 21 mesi e quindi i tempi si allungano un po'. Il numero del personale sanitario, risponde così Arcuri, è pronto. Ieri, come vi abbiamo letto, delle critiche c'erano un po' su questo fronte. Sentiamolo. Le regioni hanno avviato una prima sessione nella verifica delle adesioni da parte del personale sanitario e sociosanitario e che dalle prime informazioni e dalle prime e ancora troppo poco significative risultanze sembra che ci dia un conforto anche superiore alle nostre aspettative. Sembra che il numero delle adesioni sia percentualmente soddisfacente. E noi lo speriamo davvero, tanto che Garattini, il professor Garattini a Tagadà scherza, no? Dice: la primula per andarsi a vaccinare è bella, però pensiamo prima alle cose serie. Bella, è un'ottima insegna, insomma, ci riassicura tutti, però sarebbe meglio avere i medici magari. i medici e gli infermieri che sono necessari per fare questa, e soprattutto sapere che tutta la predisposizione per i meno 60 e meno 80 è in atto, perché insomma il fatto che dove arrivi ci sia meno 60 e 80, insomma, va bene, insomma, ma così Garattini, Garattini molto chiaro dice pensiamo anche ad altro. Oh, c'è una polemica sui vaccini che arriva dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, sentiamolo. Io sono irritato ed indignato per il fatto che nel nostro paese non si riesce mai ad avere una misura chiara e soprattutto che si continuino a prendere mezze misure che servono solo a fare, per un verso, demagogia politica e per un altro verso ad allungare i tempi della crisi. Prendiamo una decisione chiara e forte e così riduciamo i tempi della crisi come fanno altri paesi tipo la Germania. Non era questo. Andiamo al traffico e poi vediamo se riusciamo a sentirlo. Il caos regna sovrano. Sentiamo l'audio giusto di De Luca, quello sui vaccini. Ho l'impressione che si apra il mercato nero anche dei vaccini. Ma è tanto difficile dire ai cittadini italiani che la distribuzione dei vaccini avverrà in maniera proporzionale rispetto alla popolazione residente. Punto. Questa è una cosa chiara. Ma vedere che ci sono regioni che hanno il doppio, il triplo, il quadruplo di altre regioni è una cosa indecente, come indecente l'uso del cosiddetto algoritmo. Così De Luca, allora è vero, questo avviene, la Campania, il primo giro di vaccinazioni per la Campania ammonta al 2, coprirà il 2,31% della popolazione, in Lombardia sarà il 2,8% della popolazione, in Liguria siamo al 3,98%, ed è vero questo, nel senso ci sono regioni che hanno quasi il doppio, però è vero anche che si è deciso di partire dai più anziani e la Campania ha la popolazione più giovane d'Italia e quindi presumo che la correzione sia avvenuta per quello. Prima di passare a parlare di scuola vi faccio sentire l'audio, perché ieri Zai ha varato quest'ordinanza ultra restrittiva per la quale non si può uscire dai comuni. E il 4 dicembre scorso però eccolo. Sicuramente magari li vai a tutelare in comuni da 3, 4, 500 abitanti, 1000 abitanti, 2000, ma in un comune da 3 milioni di abitanti questa norma è pressoché inutile. Allora io spero ci sia un ravvedimento, perché da un punto di vista scientifico non ha supporto scientifico. Ce l'avrebbe in linea di principio se avessimo tutti i piccoli comuni e ci fosse una uniformità di applicazione, ma così non è. Ci applichiamo una regola a un comune e a un altro comune applichiamo la stessa regola ma alle dimensioni di uno Stato. Niente, però adesso Zai ha chiuso i comuni, quindi che dobbiamo dire? Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Presidi, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ricordiamo sempre, perché sennò poi gli insegnanti che sono all'ascolto mi si arrabbiano, Giannelli. Allora, ricordiamolo sempre, la scuola non è che è chiusa la scuola. Le superiori vanno avanti con didattica a distanza e le medie e le elementari sono aperte, le scuole dell'infanzia sono aperte, salvo i casi nei quali poi si trovi un positivo, l'ASL decide tutto quello che raccontiamo. Quindi la scuola non è propriamente chiusa. Però si sta ragionando su come far rientrare in presenza o il più possibile in presenza i ragazzi delle superiori. La domanda è secca, Giannelli, siamo pronti? Guardi, il punto è molto semplice, e noi possiamo lavorare, possiamo impegnarci al massimo e lo stiamo facendo ai tavoli provinciali coordinati dalle prefetture, che sono un luogo secondo me molto ragionevole per trovare delle soluzioni di compromesso tra le varie istituzioni, in particolare tra le esigenze delle scuole e le esigenze del sistema dei trasporti pubblici locali. Quindi questo dal punto di vista del metodo è stato un buon passo avanti, secondo me, deciso dall'ultimo DPCM. Il punto qual è? Il punto è che comunque dobbiamo fare i conti con un'epidemia che si muove un po' per conto suo. adesso stiamo assistendo a una recrudescenza. Però Gianelli, mi scusi, operativamente i tavoli stanno andando avanti oppure no? Stanno funzionando oppure no? Sì, stanno funzionando e stanno prendendo decisioni ovviamente differenziate da zona a zona. Aggiungo che i tavoli sono provinciali, ma all'interno di una stessa provincia abbiamo situazioni molto diversificate. L'esempio più lampante probabilmente è quello di Roma. La provincia di Roma contiene un'area metropolitana enorme, quella di una metropoli come Roma, che a sua volta poi al suo interno ha esigenze differenziate e piccoli comuni. Faccio per dire Grotta Ferrata, Velletri. È evidente che i problemi di assembramento, di traffico, di intasamento di mezzi pubblici che ci sono in questi comuni non sono gli stessi di Roma, anche perché a Roma abbiamo mezzi pubblici a getto continuo, diciamo così. Nei piccoli centri probabilmente sì, le cose sì, si fa per dire, Giannelli, i romani avrebbero qualcosa da contestare su questa affermazione. Però, diciamo, le metropolitane arrivano in continuazione, diciamo, sì. Adesso potremmo volerne di più, indubbiamente, però insomma è dubbio che ci siano. E quindi questo è un aspetto. Il punto è che le autorità sanitarie stanno esprimendo delle titubanze e dei timori che non sentivo dire da parecchie settimane. Credo sia di ieri o di avantieri ho sentito Frezza appunto che ne parlava con gran timore della riapertura alla presenza degli studenti delle scuole secondarie, non tanto per il pericolo di diffusione internamente alle scuole, perché questo, con il rispetto delle regole che c'è e che gli alunni hanno imparato a praticare, secondo me è molto limitato, ma indubbiamente per portare tutti questi studenti a scuola e per farli tornare a casa qualche problema c'è, sì. Perché per esempio sui mezzi pubblici abbiamo problemi di affollamento, l'abbiamo visto tutti che nonostante i limiti teorici dell'80%, poi i mezzi a Roma, tanto per dire, erano stracolmi, tanto gli autobus che le metropolitane, quindi in quelle condizioni è evidente che non si riesce a frenare il contagio. Allora, di fronte al timore che ci possa essere questa terza ondata di cui tutti parlano, posso capire che ci sia una sorta di prudenza o di maggior prudenza in questi giorni rispetto ai giorni passati. Giannelli, ieri abbiamo avuto ospite il professor Crisanti, il quale ha lanciato quest'idea, ha detto magari si potrebbe il 7 gennaio fare una sperimentazione su un distretto scolastico e vedere come va, e poi e rimandare l'apertura delle altre. Che dice, le piace o non le piace? Ma guardi, è chiaro che questa è un'idea assolutamente corretta, diciamo, se inquadrata nel tema della ricerca sanitaria e del tentativo di studiare quali sono i migliori sistemi di profilassi. Dal punto di vista strettamente sociale a me sembra di difficile attuazione, perché certo noi possiamo anche fare così, però nel frattempo torniamo a casa tantissimi milioni di ragazzi, quindi ora forse è un po' difficile, bisogna rifletterci. Domanda secca, Giannelli, ce la faremo o non ce la faremo? Secondo me ce la faremo, il problema è di riuscire a organizzare... Cioè a ripartire il 7 gennaio, dico a ripartire il 7 gennaio, Guardi, io qualche settimana fa ho detto ce la possiamo fare, il punto è se questi tavoli riescono ad andare abbastanza avanti nel loro lavoro da mettere insieme tutti i congegni molto delicati e molto delicati appunto della scuola e del sistema dei trasporti. Mi spiego con un esempio. Se noi abbiamo scuole, diverse scuole vicine, è chiaro che i mezzi pubblici che portano gli studenti a queste scuole sono gli stessi. Allora qui può avere un senso parlare di scaglionamenti se questi mezzi pubblici fanno più corse e portano a varie ondate gli studenti. Se abbiamo una scuola isolata, che viene servita da una sola linea di autobus, probabilmente lì questo effetto è minore. Allora i tavoli devono avere l'abilità di riuscire a individuare tutte queste situazioni molto particolari, diverse tra loro, e trovare soluzioni diversificate. Se ci riusciranno, io credo che ce la possiamo fare. Indubbiamente il tempo stringe. Oggi l'assessore all'istruzione della Regione Campania dice... potremmo dover ritardare rispetto al 7 gennaio di alcune settimane, così 2-3 settimane, non sappiamo esattamente. Campania che ne ha perso una quantità di scuole in presenza enorme, come sa Giannelli. Come giudica queste frasi? Come giudica queste frasi? Guardi, evidentemente in Campania gli amministratori locali ritengono di avere dei problemi particolarmente gravi, perché già la decisione di chiudere molto, insomma, di chiudere alla frequenza naturalmente, alla frequenza in presenza, durante l'autunno, e adesso questa ci porta a pensare che ci sono dei numeri del contagio che probabilmente sono anche più severi di quelli di cui ci rendiamo conto. Io spero che questa decisione sia presa ovviamente con la dovuta consapevolezza, perché comunque comporta un costo sociale molto elevato. Grazie, grazie Antonello Gianelli, presidente dell'Associazione Presidi, per essere stato con noi. GR24, poi la rassegna stampa tra poco.